Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto costa davvero la moda low cost? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali sulla scia della tragedia che in Bangladesh ha provocato la morte di oltre un migliaio di persone. Torniamo a parlare di fast fashion e manodopera a basso costo, di sicurezza e diritti dei lavoratori lungo la filiera globale di produzione delle grandi catene di abbigliamento. Lo facciamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nella seconda parte, dedicata come sempre al focus sui trend, riflettori puntati invece sui consumi geniali, quando le invenzioni fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Con la crisi torna l'autarchia a tavola. Crollano del 4% gli acquisti di piatti pronti surgelati e del 3% quelli delle merendine, mentre fanno registrare un vero boom quelli di uova e farina, più 6%, e addirittura dell'8% i preparati per dolci. Lo rileva Coldiretti sulla base dei dati elaborati da Coop Italia. Il fai da te in cucina spinge pizza, pane, marmellate, sottaceti e dolci fatti in casa. E in tempi di crisi anche la solidarietà si apre alla condivisione. L'idea è di Terre des Hommes, che con moltiplicamore.org lancia il sostegno a distanza partecipato. Basta accedere al sito, devolvere un importo iniziale minimo e diffondere l'invito agli amici via social network. Un sistema di crowdfunding ideato per dare nuovo impulso a questa scelta, che nel 2012 è calata del 20%. Stop agli eccessi, torna la signora per bene. La recessione modifica anche il gusto. Basta scollature profonde e minigonne inguinali. L'austerity si fa strada anche tra le pieghe dei vestiti, sia alle gonne al ginocchio e al mezzo tacco. Il capo icona? La gonna a ruota. Più di 150.000 firme raccolte in 5 mesi, oltre 1.000 sottoscrizioni al giorno. Si conclude con successo l'iniziativa Libera la Domenica, promossa da Confesercenti per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che limiti le aperture domenicali e festive delle attività commerciali. Riduciamo gli sprechi. Non sprecare è bello e buono. Questo lo slogan di Slow Food Day 2013, in programma il 25 maggio in 300 piazze italiane. Il calendario completo degli eventi su slowfood.it. La borsa della spesa. In Bangladesh si contano decine di morti per il crollo di un edificio di 8 piani alla periferia della capitale Dhaka. È conosciuto con il nome di Rana Plaza. Well, state media in Bangladesh say an 8-story building has collapsed near the capital of Dhaka, killing more than 70 people. Authorities say hundreds more have been injured. A desperate scene on the outskirts of Dhaka. Soldiers and rescue workers scramble over the wreckage of this commercial building. This is just the latest disaster to hit the Bangladesh garment industry. Era il 24 aprile scorso, a Dhaka, in Bangladesh, crollava un edificio di 8 piani che ospitava 3.000 lavoratori impiegati in imprese tessili al lavoro per conto di molte società occidentali. 1.127 di questi lavoratori, molte le donne, sono rimasti sotto le macerie. In Bangladesh, secondo esportatore di abbigliamento al mondo dopo la Cina, l'export di capi d'abbigliamento rappresenta l'80% della sua produzione, il 60% della quale verso l'Europa. In Bangladesh, dicevamo, gli oltre 4 milioni di lavoratori del settore manodopera per le principali catene occidentali guadagnano meno di 30 euro al mese e lavorano in molti casi al di sotto degli standard minimi di sicurezza. Dal 2005 ad oggi più di 1.700 lavoratori tessili sono morti a causa della scarsa sicurezza degli edifici. Una situazione che non può non farci riflettere sul costo in termini di vite umane e giustizia sociale della moda cosiddetta low cost. A basso prezzo per noi consumatori occidentali, dal prezzo altissimo però per chi la confeziona. proprio in seguito alle proteste e alle pressioni sollevate dopo la tragedia di Dhaka, per la prima volta molte importanti marche della moda low cost, fra cui l'italiana Benetton, la spagnola Zara, la svedese H&M, l'olandese C&A, hanno accettato di firmare un protocollo sulla sicurezza delle fabbriche, irrigidendo le regole antincendio e rafforzando i diritti dei lavoratori. Dall'intesa promossa dai sindacati internazionali con il coordinamento dell'Organizzazione per il Lavoro dell'ONU, si sono chiamati fuori però i grandi gruppi americani come Walmart e Gap, che ritengono l'accordo troppo vincolante. Il protocollo è un fatto storico. Presto nessuno potrà più restarne fuori, ci dice Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, una delle organizzazioni che ha promosso l'accordo. È un fatto storico, a nostro avviso, un lavoro che viene da lontano. Sono molti mesi che noi lavoriamo insieme ai sindacati internazionali, Industry Hall, per promuovere appunto un percorso vincolante e incisivo per le imprese. L'accordo è importantissimo perché mette in campo una task force, diciamo, multilaterale, che vede il protagonismo dei marchi internazionali, dei grandi distributori, delle grandi firme della moda, insieme ai sindacati internazionali, ai sindacati locali e insieme chiaramente ai fornitori e al governo bengalese. Quindi un processo veramente plurale, trasparente, efficace, che adesso chiaramente bisognerà riempire di sostanza immediata operativa, perché i rischi che corrono i lavoratori in Bangladesh sono quotidiani, vista la fatiscenza, la pericolosità degli edifici. 1127 morti sono una cifra terribile, dovevamo arrivare fin qui purtroppo per ottenere tutto questo, però almeno questo è stato ottenuto. I marchi americani, i grandi marchi americani effettivamente sono ancora, diciamo, latitanti rispetto a questa richiesta. Noi ci auguriamo che anche loro si rendano conto che ormai di fronte a un gruppo così vasto di grandi marchi internazionali già sul tavolo della trattativa e dell'accordo, e si rendano conto che non è più possibile restarne fuori. Restarne fuori oggi vuol dire non voler contribuire a salvare altre vite umane. Bangladesh, ma non solo. Voi ad esempio pubblicate sul vostro sito un video significativo sulla sabbiatura del jeans. In questo caso il paese interessato è la Turchia. È una procedura che danneggia gravemente la salute dei lavoratori. Sì, peraltro in Turchia, grazie alle campagne che sono state fatte negli scorsi anni, la sabbiatura è stata bandita dal governo, quindi non si può più sabbiare legalmente i jeans in Turchia. Per questo motivo la produzione si è spostata in altri paesi, la Cina, il Bangladesh ancora, l'Egitto, altri paesi nordafricani. Peraltro noi stiamo proprio preparando, sarà questione di giorni o settimane, un nuovo report di aggiornamento e anche di monitoraggio di cosa sta succedendo dal punto di vista della sabbiatura a 2 anni dalla nostra campagna che fu lanciata nel 2010. Il prezzo da pagare, insomma, è tutt'altro che low cost, ci dice ancora Deborah. È un prezzo altissimo perché purtroppo questi ultimi anni di sviluppo selvaggio ci hanno abituati a pensare che è possibile comprare una maglietta a qualche euro senza che questo comporti delle conseguenze. In realtà non è così. Noi sappiamo che un prodotto low cost nasconde delle condizioni di lavoro e di vita assolutamente precarie e quasi di schiavitù, potremmo dire, naturalmente partendo dal fatto che, fatto 100 il prezzo del prodotto, il 2% circa finisce nelle tasche di chi lo produce. Quindi potete immaginare cosa questo vuol dire quando un prodotto costa così poco. Quindi il prezzo è altissimo, è un prezzo che naturalmente è tutto sulle spalle dei lavoratori e in particolare delle donne, che sono la maggior parte dei lavoratori del settore tessile, e che sicuramente, come dire, se non viene esplicitato attraverso le campagne di consumo critico e di informazione, rimane qualcosa, come dire, un'informazione in penombra che ci fa apparire la moda low cost come un'opportunità per i consumatori, diciamo, più occidentali o più capienti. Non è così, non è un'opportunità. È un modo per sfruttare nel breve periodo un vantaggio soltanto per alcuni. Essere e avere. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Di nuovo in studio con Essere e Avere, con questa citazione da Amici miei, introduciamo il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi geniali. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. In che misura la tecnologia applicata può fare la differenza per prodotti e servizi? Quanto conta ancora l'idea, l'invenzione, l'intuizione geniale nel mondo dei consumi? Dai tessuti intelligenti che proteggono, per esempio, dalle onde elettromagnetiche, ai dispositivi in grado di segnalare qualsiasi cosa, dalle app che semplificano la vita alle pratiche di condivisione che diventano servizi innovativi, fino agli spot geniali che decretano il successo di un prodotto. Patrizia. Sì, parliamo di prodotti e servizi geniali nel senso di innovativi, cioè ad alto tasso di originalità, che soddisfano bisogni e desideri imprevisti, inessenziali, di nicchia o rivoluzionari, ma in ogni caso stupefacenti. Nella moda, per esempio, le wearable technologies, le tecnologie indossabili, tessuti e fibre tessili sono al centro oggi di una grandissima sperimentazione, soprattutto sul fronte dell'ibridazione con la tecnologia, per rendere gli abiti che indossiamo più intelligenti e performanti. Una casa di moda francese, la parigina Smuglet, ha lanciato per la primavera estate 2013 una linea di abiti sartoriali maschili che schermano dalle onde elettromagnetiche che ormai pervadono, sappiamo tutti, gli ambienti in cui viviamo, case, uffici, locali, anche parte degli spazi pubblici, grazie a nickel, acciaio, alluminio e pirite incorporati. Protezioni altamente tecnologiche a questa esposizione, che finora erano riservate solo alle divise specifiche di alcune professioni a rischio, che vengono trasferite nell'abbigliamento quotidiano. Parliamo sempre di abbigliamento. Geniale il marchio californiano di calze Stance, che trasforma una delle piccole tragedie quotidiane legate al lavaggio in lavatrice, cioè la misteriosa perdita di uno dei due calzini, in un prodotto divertente e risolutivo, cioè confezioni di calzini da tre. Non solo sono tre i calzini, ma sono leggermente diversi l'uno dall'altro, così da potersi comunque coordinare insieme quale che sia il disperso. Ma usciamo dalla casa e dai bagni verso la città per raccontare qualche servizio geniale delle smart cities. Gli spazi pubblici, marciapiedi, pareti degli edifici, ogni elemento urbanistico diventa interfaccia di accesso a informazioni e servizi utili per i cittadini. A Londra i cestini Renew con schermi digitali in tempo reale forniscono informazioni e notizie, gli orari dei mezzi pubblici, aggiornamenti della borsa, previsioni del tempo, agenda di eventi locali, pubblicità, eccetera. A Rio de Janeiro questa funzione la fanno i QR code direttamente innestati nei marciapiedi. In Italia, in tutta Europa, le cabine telefoniche smart con schermi per siti info, e a Parigi le pensiline intelligenti che, con schermi tattili interattivi, offrono molti servizi per i cittadini, per esempio localizzare e consultare le offerte di lavoro divise per settore e quartiere. E tra i modelli di business che potrebbero rientrare nella categoria di quelle geniali, sicuramente c'è Dollar Shave Club.com. Questa è l'idea. In abbonamento da 1 a 9 dollari al mese, il sito vende, spedendoli a casa, rasoi per la barba da uomo con 4 ricariche di lamette di alta qualità. Pare che in media gli americani spendano 20 dollari al mese per acquisti di rasoi usa e getta delle varie marche. Lo spot di shaveclub.com è divertentissimo, sembra una sitcom. Il modello ha avuto un grandissimo successo e funziona. Il fondatore è già milionario. Tra le formule di pagamento con cui promuovere prodotti e servizi basate su prezzi variabili, pare geniale quella introdotta nel settore viaggi e turismo dalla compagnia aerea Samoa Air, con lo slogan "paghi in base a quanto pesi". I passeggeri, al momento della prenotazione del posto e del volo, dichiarano il loro peso corporeo, chilo più chilo meno, oltre a quello del loro bagaglio. La compagnia, che dispone di una flotta di piccoli aeromobili, calcola la tariffa ed ecco che il costo dei biglietti sullo stesso volo varia per le diverse fasce di peso. I clienti sono soddisfatti, anche quelli sovrappeso, apparentemente discriminati, a cui vengono di fatto riservati i posti più comodi e più larghi, così come le famiglie con figli piccoli, che spendono molto meno. Air Samoa può, da parte sua, bilanciare meglio il carico per questi nuovi viaggi un tanto al chilo. Altro caso, nel settore food and beverage, di prezzi adattivi, cioè prezzi che cambiano ma il prodotto è lo stesso. In questo caso non a seconda di chi lo consuma, ma in base al tempo atmosferico. Stiamo parlando di una bibita al limone che, quando fa caldo, costa di meno. È l'iniziativa lanciata l'estate scorsa dall'agenzia spagnola Momentum Madrid per Limon in Ada, del marchio Minute Maid di Coca-Cola. 18 vending machine a forma di limone con un termometro incorporato sono state posizionate nelle location spagnole sole estive, nei parchi acquatici e di divertimento, e sono vending machine che mostrano su un grande display la temperatura e il prezzo della lattina, che costa 2 euro fino a 25 gradi. Scende del 30%, quindi a 1,40 euro tra i 26 e i 29 gradi, e si prende con un solo euro dai 30 gradi in poi. Anche questa tendenza ha il suo programma TV di riferimento, Inventing the World, un viaggio alla scoperta delle invenzioni che hanno cambiato il mondo, in onda su Discovery Channel. Il telefono cellulare, uno strumento irrinunciabile. Ma per inventare il cellulare ci sono voluti la donna più bella del mondo, il fratello di Frankenstein, l'iceberg più famigerato della storia e una passeggiata sulla Sixth Avenue. È proprio così che è andata. I primi telefoni cellulari erano dei mattoni, pesanti e ingombranti, ma già allora era evidente che fossero qualcosa di davvero speciale. Patrizia, l'idea geniale può rappresentare la svolta, altre volte però ci sono prodotti, seppur geniali, che si perdono per strada. Certo, è il mercato poi a decretare il successo di un prodotto in base alla domanda: quanto può cambiarci la vita. Gli italiani, popolo di inventori, si dice, sono gli artefici, per esempio, di molte delle invenzioni che ci hanno davvero cambiato la vita. Come ricorda Vittorio Marchis nel libro Codice Edizioni, 150 anni di invenzioni italiane. Una storia illustrata e divertente delle molte invenzioni incredibili che sono brevetti italiani. Dall'ombrello alla macchina del film Ritorno al futuro, che, come noto, è stata progettata da Giugiaro. Applicazione geniale dell'internet delle cose al proprio prodotto per Huggies, la nota azienda del settore assorbenza per bambini, che ha lanciato in Brasile Tweet Pee, un piccolo dispositivo da applicare ai pannolini dei neonati che rileva l'umidità. È una sorta di gadget a forma di uccellino, da qui il nome Tweet, che avvisa appunto in stile cinguettio i genitori, la babysitter o chi è connesso, non solo quando sono da cambiare, ma con cadenza regolare aggiorna lo stato dell'arte con messaggini quali: qui tutto ok, ha fatto solo un paio di gocce, è l'ora del cambio. La app di TweetPee monitora il numero di cambi giornalieri e consente evidentemente anche l'ordine online del prodotto, che ben si presta a un efficace storytelling. C'è un sito dedicato e un video con un neonato che dalla culla spiega il funzionamento di TweetPee. Trovate altamente innovative anche in chiave sociale e sostenibile a Lima, in Perù, l'Università di Ingegneria e Tecnologia e l'agenzia Mayo Publicity hanno inventato e creato un billboard che cattura l'umidità dell'aria e la trasforma in acqua potabile. In Svezia, alle fermate degli autobus, un servizio di light therapy, la terapia della luce, un uso geniale dei tempi morti, appunto quelli nei quali aspettiamo per esempio i mezzi. In un paese in cui l'inverno si protrae per moltissimi mesi e l'assenza di luce impatta notevolmente sulla salute psico-emotiva degli abitanti, ecco l'idea geniale di sfruttare questi momenti per fare un bagno di luce, vero trattamento terapeutico di benessere con effetti antidepressivi. Sono stati sostituiti quindi i cartelli pubblicitari con pannelli illuminanti che non emettono raggi ultravioletti. L'iniziativa temporanea è dell'azienda energetica Umea. L'abbiamo sognata tutti, perlomeno alle elementari, e adesso c'è. È la penna per scrivere a mano che segnala con una vibrazione quando facciamo un errore ortografico, grammaticale o scriviamo una parola illeggibile. Si chiama Learn Stift, progettata dall'omonima startup austriaca per bambini. Un dispositivo elettronico interno riconosce i movimenti della mano associandoli ai segni alfabetici. È un prodotto divertente e stimolante per un'attività, la scrittura a mano, sempre meno praticata dai nativi digitali. Progetto finanziato con il crowdfunding, cioè con il supporto finanziario in rete, le prime penne saranno sul mercato tra qualche mese. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York sui consumi geniali? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, il giovane stilista Asher Levine è noto per incorporare nelle sue creazioni un tocco di tecnologia futuribile. Avevano già fatto scalpore gli occhiali da sole stampati in 3D da un file open source, ma con i modelli della collezione autunno-inverno 2013 compie un decisivo passo verso il futuro. Gli abiti infatti saranno imperdibili, e non solo perché le sue creazioni già godono del favore di celebrities del calibro di Lady Gaga, ma anche perché questi capi di abbigliamento saranno veramente impossibili da perdere. Se li si abbandona inavvertitamente in un luogo pubblico, un locale o un ristorante, o peggio, in caso di furto, si potrà facilmente rientrarne in possesso. Nei pezzi di punta della collezione, infatti, è stato cucito un microchip dotato di segnale Bluetooth che, in caso di smarrimento, può essere rintracciato dallo smartphone grazie a una speciale app. Se è nelle vicinanze, basta schiacciare un tasto e il capo può essere individuato perché comincia a emettere un segnale acustico. Se è più distante, l'app permette di localizzarlo su Google Map. La tecnologia è stata sviluppata in partnership con Phone Halo, un'azienda californiana innovatrice nel settore dell'internet delle cose. Insomma, come far dialogare stile e tecnologia. Grazie Alessia. Patrizia, cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale. Quanto peserà nel prossimo futuro l'innovazione e la tecnologia applicata ai consumi? Tanto più in questo periodo in cui la crisi fa comunque da detonatore di energie creative da parte dei consumatori e da parte delle aziende. Quindi accanto alla grande innovazione scientifica o tecnologica, oggi ci lascia a bocca aperta soprattutto la microinnovazione, che risolve inefficienze quotidiane, trasforma qualche aspetto della nostra vita, appunto dal viaggiare al farsi la barba, indossare un abito smart, soddisfacendo nuovi bisogni o risolvendone di irrisolti. Finisce qui anche questa puntata. Le immagini, i link, i video li trovate sulla nostra pagina Facebook, dove potrete riascoltarla. Dal sito radio24.it potrete anche scaricarle, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.